Smart City, la città intelligente. On passe beaucoup plus de temps à habiter au travail. Si abita molto più tempo nei luoghi di lavoro che non a casa a mangiare e dormire. Quindi gli uffici sono luoghi di abitazione che vanno qualificati non come la ripetizione di un attore teorico che si trovi lì in modo puramente funzionale ed efficace, ma come qualcuno che provi piacere a trovarsi lì. Qualcuno che deve lavorare, certo, ma che lavorerà tanto meglio se si sente a suo agio, se sta comodo, se ha dei vicini e se i vicini non sono esattamente come lui. Nello spazio espositivo del COSMIT si parlerà di uffici da abitare, si parlerà del modo di lavorare di oggi che importa a pochi e si parlerà del modo di lavorare in uffici che sono nel futuro prossimo e forse in un modo che alcune persone percepiscono ma altre no. Buonasera da Maurizio Melis. La voce che avete appena sentito era quella di Jean Nouvel, architetto famoso in tutto il mondo. Sta parlando dell'esposizione che c'è stata in occasione del Salone del Mobile, una mostra appunto curata da Jean Nouvel. Il tema era ufficio da abitare, dietro c'è un cambiamento del modo di lavorare che a sua volta alle spalle ha delle innovazioni tecnologiche che permettono, in qualche caso obbligano, a lavorare in modo diverso, e così sta anche emergendo una figura di lavoratore nuova che ci piace chiamare così, come hanno deciso di chiamarla al Politecnico di Milano, smart worker, lavoratore intelligente. Speriamo proprio che lo sia. In ogni caso, di lui sa tutto il professor Mariano Corso, direttore dell'osservatorio smart working proprio del Politecnico di Milano. Buonasera Corso, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, Jean Nouvel parlava di design, di arredamento, di un lavoro che si svolge sempre meno negli uffici e sempre più in altri luoghi, inclusa la casa, e di un modo anche diverso di stare sul lavoro, e voi avete un osservatorio che cerca di monitorare questo modo di stare sul lavoro e sta osservando che questo modo sta anche cambiando. Certo, assolutamente, c'è in atto una vera e propria rivoluzione che, come dice Jean Nouvel, in molti non hanno ancora capito in termini di impatto. Ecco, ci può dare qualche numero? Ma guardi, lei, come lei saprà, fenomeni come il telelavoro sono molto in ritardo in Italia, quindi in Italia abbiamo il 3% di telelavoratori rispetto al 15% di paesi come la Danimarca o la Repubblica Ceca, e tuttavia la tecnologia e i nuovi modi di lavorare stanno cambiando alla base il lavoro di gran parte delle persone, al punto che oggi meno della metà dei lavoratori professionali hanno uno stile di lavoro tradizionale. Sì, abbiamo recentemente fatto una survey e risulta che solo il 43% seguono principi di stabilità degli orari di lavoro, del luogo di lavoro, degli strumenti come noi tradizionalmente diamo per assurdo. Questo vale per una categoria di lavoratori ben precisa, che è quella dei professionisti, lei mi diceva, no? Esatto, tutti i lavoratori, diciamo quelli che chiameremo gli impiegati di concetto, però stiamo parlando della grande parte dei lavoratori oggi in Italia, e peraltro devo dire che anche su altre categorie, quelle più dei colletti blu, il fenomeno si sta cominciando a comparire anche lì. Voi avete anche in qualche modo suddiviso questi smart workers in categorie diverse, a seconda anche del perché magari lavorano a casa, se è una scelta, se... Guardi, noi abbiamo intanto abbiamo visto che circa un quarto dei lavoratori, il 26%, per più di metà del loro tempo di lavoro si trovano a dover lavorare fuori dall'ufficio, fuori dalla propria postazione. Ne abbiamo quasi altrettanto, il 24%, che sempre per esigenze professionali godono di una forte flessibilità sugli orari, quindi non hanno un orario di lavoro fisso ma possono adattarlo, e poi il 31%, quindi quasi un terzo dei lavoratori, che hanno un'ampia autonomia in termini di strumenti attraverso i quali lavorano. Certo, la composizione di tutti questi trend di flessibilità oggi è ancora piuttosto rara, stiamo parlando di circa un 5%, però sta emergendo quindi uno stile di lavoro che è molto diverso da quello che abbiamo imparato a comprendere e in base al quale sono anche progettate le nostre organizzazioni. Oltre che gli spazi di lavoro, come appunto ricordava Jean Nouvel all'inizio. Senta, benefici che ci possiamo attendere dalla diffusione di questo modello di lavoro, voi li avete quantificati? Sì, guarda. Guardi, sulla base delle sperimentazioni, dei piloti che abbiamo seguito, vengono fuori dei benefici che sono davvero, davvero notevoli, e sono benefici che riguardano le persone stesse. Abbiamo quantificato sulla base di sperimentazioni che uno smart worker che facesse 100 giorni l'anno di telelavoro, sì, cosa che è assolutamente ragionevole, risparmierebbe mediamente 70 ore l'anno e 600 euro, con impatti poi molto significativi anche sulla sua qualità della vita. Ma soprattutto le aziende godono di aumenti di produttività che arrivano fino al 25%. Con picchi del 50% addirittura, leggevo. Assolutamente, abbiamo sperimentato veramente in alcuni casi dei fortissimi benefici in termini di produttività. E poi non dimentichiamo che lo spazio fisico costa, e quindi stiamo parlando di riduzioni che tranquillamente superano il 30% in certo, termini di costo dello spazio fisico, senza considerare che le aziende hanno altissimi costi, ad esempio per il tasso di assenteismo delle persone. L'assenteismo nei casi da noi seguiti viene quasi annullato. Ecco qua. Perché quindi era un assenteismo legato all'incapacità anche di dare risposte flessibili quando magari la persona ne aveva veramente bisogno, perché altrimenti non spariva, no? Cioè, se era gente che andava al mare ci va lo stesso. Certo. Ecco, questo se lei lo proietta a livello di sistema, quindi sia dal punto di vista ambientale, stiamo parlando dell'equivalente delle emissioni che potremmo risparmiare, delle emissioni di 193.000 auto a livello di sistema, se lo traduce invece in termini di produttività del sistema paese, parliamo di un beneficio che noi abbiamo stimato di 1,7 miliardi l'anno per la migliore produttività. Insomma, una boccata di ossigeno, sì, per le certo, nostre imprese, che varrebbe certo, la pena valorizzare. Allora, ci fermiamo qui e domani invece cerchiamo di capire un po' meglio come appunto un'impresa deve strutturarsi per usufruire, io direi, di questo modo nuovo di lavorare. Benissimo, grazie e arrivederci. A domani.